Now, let me also welcome all of the yogis or meditators who have joined our retreat today. Vorrei anch'io dare il benvenuto a tutti i meditanti che si sono uniti a noi a questo ritiro oggi. Now, I'll give another opening talk, and today it will be again slightly different from the previous times. Anche questa sera farò un discorso di apertura, ma sarà un po' diverso rispetto a quello che ho dato nelle due volte precedenti. Now, let us start with Dhammapada verse 35, namely, in the Pali language given as Dunigahasa lahuno yata kama nipatino chitasa dhammato sadhu chitam dantam sukavaham. The meaning of this Pali Dhammapada verse is the mind is difficult to control, swiftly and lightly it moves and lands wherever it pleases. It is good to tame the mind, for a well-tamed mind brings happiness. Allora, cominciamo con un verso del Dhammapada, precisamente il 35, che il Venerabile ha recitato nella lingua Pali, che io non farò, però la traduzione è questa, cioè la mente è difficile da controllare, perché in modo veloce e leggero si posa di qua e di là. Yes. Ovunque it is good to tame the mind. E quindi è bene addestrare la mente. For a well-tamed mind brings happiness. Poiché una mente ben addestrata porta la felicità. Now, what we shall focus on during this Satya Dhamma talk qualities of the untrained, the untamed mind, and then also how to tame and train this mind. Quello che di cui parleremo questa sera quindi sono le qualità di una mente non allenata, non domata, e quello che noi possiamo fare per domare o allenare la mente, addestrare la mente. So we're saying, the Dhammapada verse is saying that the mind is difficult to control. Quindi questo verso del Dhammapada ci dice che la mente è una cosa difficile da controllare. And we want to keep our mind well balanced, and yet it gets perturbed by a lack of sila. Noi vogliamo tenere la nostra mente ben equilibrata e invece viene perturbata, viene disturbata a causa di una mancanza di sila, della moralità. And suddenly then we want to have a calm mind, and yet the mind is distracted by lack of sense of the restraint of the senses. Quindi vogliamo una mente calma, tuttavia viene continuamente distratta da questa mancanza riguardo al contenimento dei sensi. And we want to have a pure and strong mind, yet the mind is distracted by the hindrances. Vogliamo avere una mente pura, pura e forte, tuttavia la mente è distratta da questi forti impedimenti, questi ostacoli. And also the mind is defiled and weakened by those same hindrances. E la mente è inquinata e indebolita da questi stessi ostacoli. And suddenly then on other occasions the mind may be restless owing to too much effort. A volte la mente può anche essere troppo irrequieta a causa del troppo sforzo. And suddenly then again the mind may be absent-minded owing to a lack of mindfulness. La mente può anche essere, come dire, distratta o non attenta a causa della mancanza di consapevolezza. and the mind may even be affected by physical weariness, and which might be caused by too much thinking. La mente può anche essere influenzata da una stanchezza fisica dovuto al troppo pensare. Now, the mind is certainly difficult to control also for other reasons, namely it tends to be like a volcano. E quindi la mente è difficile da controllare anche per altre ragioni. Per esempio, tende a essere come un vulcano. And if you think of that volcano in Iceland that erupted about a week ago, well, this volcano was dormant for about 80 years. Se pensate a questo vulcano che ha cominciato la sua eruzione in Islanda, è stato latente o dormiente per 80 anni prima di cominciare. All of a sudden, without much pre-warnings, the volcano erupts, and suddenly, as all of you will, or most of you will know, the newcomers at least, has caused much chaos and damage. E improvvisamente si sveglia, quindi c'è un'eruzione senza preavviso. E così improvvisamente, come tutti saprete, o meno quelli che vengono da fuori del ritiro, questo crea molto caos e molti danni. So, as a result of the eruption of the volcano, that volcano emitted so much rocks and then ashes into the atmosphere that for several days, the airspace, most of the airspace over Europe was closed or was shut down. E a causa della cenere emessa da questo vulcano in eruzione, molto dello spazio aereo su tutta l'Europa praticamente è stato bloccato, quindi ha causato la chiusura di tutti gli aeroporti. And so the planes couldn't fly, and thousands and thousands of people were stranded not only in Europe but as far away places as Indonesia and Japan. E quindi migliaia di aerei non hanno avuto la possibilità di volare, gli aerei non hanno avuto la possibilità di volare, e migliaia di persone si sono trovate, come dire, un po' allo sbando, sia non solo in Europa, ma anche in Indonesia, in Asia. And one meditator who was signed up for this retreat, he was planning to fly from Indonesia back to Switzerland and then to come over here for the retreat, and he had to cancel because he couldn't, his plane was simply not flying because it couldn't land in Europe. C'era un meditante che doveva partecipare proprio a questo ritiro, ma ha dovuto rinunciare perché il suo volo dall'Indonesia alla Svizzera è stato cancellato, e quindi ha dovuto rimandare il tutto. And this is not everything yet. With all the air traffic, or most of the air traffic closed or reduced, then there's been apparently a big run onto the trains, and so this has certainly led to overcrowded trains. E a causa di questo blocco degli aerei, quindi non finisce lì, ma c'è stato anche una corsa verso i treni, la rete ferroviaria, quindi anche lì ci sono stati dei treni molto molto affollati. And so, then like the airplanes not flying for several days has apparently incurred a financial loss of $200 million a day. E quindi proprio a causa del fatto che gli aerei non hanno potuto volare, le compagnie aeree hanno praticamente hanno subito un danno che consiste in $200 million a day. 200 milioni di dollari al giorno. For the aviation industry. Sì, per questa tutta l'industria aeronautica. So, because of the sudden eruption of the volcano, there have been so many consequences. Quindi, a causa di questa eruzione improvvisa di un vulcano, ci sono state tutte queste conseguenze. And, believe it or not, the mind could be just as bad. E che voi ci crediate o no, la mente può essere altrettanto, come dire, cattiva, nel senso può essere, la situazione può essere altrettanto difficile. And so, if the right conditions are there, the mind in no time can go from a relatively peaceful state to an extremely aggressive, if not violent, state. E anche la mente, se ci sono le condizioni giuste, può passare da una situazione abbastanza tranquilla, calma, a una invece situazione molto aggressiva, addirittura violenta. And stato violento. We may think of our own mind to be rather, rather peaceful and nice and gentle and whatnot. However, there's much hidden unwholesomeness there. Noi possiamo pensare di avere una mente tranquilla, calma, pacifica, via di seguito, ma che ci piaccia o no, ci potrebbero essere tante cose non salutari nascoste dentro la nostra mente. And certainly when we happen to go into a rage and the mind explodes, then there can be a lot of damage to ourselves, but also to those around us. E quindi quando abbiamo, come dire, un'esplosione di ira, allora noi possiamo creare molto, possiamo fare del male a noi stessi e a tutti quelli che ci sono intorno. And so, there are lots of examples for this on public TV. Ci sono molti esempi di questo sulla televisione pubblica. No. This happens because there are defilements that are present in the mind, that are latent in the mind. Questo succede perché ci sono dei difetti mentali che sono latenti nella mente. And so those defilements we can then, according to their degree of intensity, categorize as latent defilements, which means they are not yet active in the mind. Then we have the so-called obsessive defilements, which means they are already active on a mental level. And so, then we have the so-called transgressive defilements, which lead to actual physical or verbal transgressions. Allora, questi difetti mentali possono essere messi in tre categorie sulla base della loro intensità. Allora, prima abbiamo i difetti latenti, che sono nel flusso della coscienza ma ancora non si sono manifestati. Poi ci sono quelli ossessivi, che sono, come dire, si sono presenti nella coscienza ma non si sono ancora attivati, nel senso che non hanno ancora avuto delle conseguenze. Il terzo tipo sono quelli trasgressivi, che sono presenti nella coscienza ma si sono anche manifestati attraverso delle azioni, o attraverso il corpo o la parola. Yes, right. Again, the Dhammapada verse says it's difficult to control the mind. And to give you another aspect for this, we may be a holder of a PhD in physics, in in geography or whatever, and we may think of ourselves as having a well-trained mind, a mind that can think very logically and so on, and yet, when we start meditating, then we realize how much wandering mind arises and how much that wandering mind is quite chaotic and illogical. Per tornare al verso del Dhammapada, che dice che la mente è incontrollabile, noi potremmo avere una o più lauree in filosofia, psicologia, eccetera, ritenere di avere una mente ben addestrata, sotto controllo, eppure quando ci sediamo in meditazione ci accorgiamo di quanto invece la mente sia irrequieta, quanto divaghi e quanto ragioni a volte in maniera illogica. And so another big contrast between ideal and reality is that we may have a body that is well trained by engaging in various forms of athletics or by doing aerobics or whatnot, and yet we find ourselves crying, we find ourselves sad, we find ourselves running out of energy. E allo stesso modo noi potremmo pensare di avere un corpo ben allenato, perché andiamo in palestra, facciamo aerobica o facciamo qualche sport atletico, eppure ci accorgiamo che potremmo ritrovarci a piangere o essere tristi o a sentirci privi di energia. Again, we may think of ourselves as being very pure in conduct, and yet we may spend many hours a day backbiting. Potremmo ritenerci delle persone molto pure per quanto riguarda la nostra condotta, eppure ci potremmo trovare a passare molto del nostro tempo a rispondere male alle persone. Backbiting, or talking slandering. Sì, oppure parlare in maniera aggressiva, o offendere, provocare, sparlare delle persone. The situation at home is organized, we have all the things that we are needing, it seems like we're quite fearless. But as soon as we lose our job, or as soon as we get seriously sick, a lot of fear arises in the mind. Possiamo pensare di avere tutto quello che ci serve, di avere una vita ben organizzata e quindi di essere senza paura. Eppure, appena succede qualcosa, come la perdita del lavoro o una malattia, ci accorgiamo che invece di paura ne abbiamo. Again, we may think highly of our own mind, thinking that it will contribute. It is contributing to our happiness. Yet, when we observe it carefully and objectively, we find that the mind causes, the untrained mind causes us much suffering. Possiamo avere una buona idea della nostra mente e pensare che essa possa aiutarci a produrre felicità, ma osservandola più attentamente in meditazione ci accorgiamo che invece è la causa di molte della nostra sofferenza. Or, we may have, under normal circumstances, a good memory, but then, when the mind is agitated, we start forgetting this or that fact. Potremmo avere una buona memoria in condizioni normali, però quando la mente è agitata ci potremmo accorgere che ci dimentichiamo molti fatti. And so, then also, the mind may be responding very much to external stimuli. And whenever we encounter some desirable object, then we feel quite joyous, we get elated, and whenever we come across some undesirable object, whatever that might be, then the mind turns sad. Allora, la mente poi vediamo che risponde a tutti gli stimoli esterni, Se per esempio incontriamo un oggetto gradevole, allora nasce in noi della gioia, del piacere. Viceversa, se invece incontro un oggetto spiacevole o sgradito, allora reagisce con avversione o tristezza. And so such a mind, is could be called fickle, and it changes as often as the weather. Quindi una mente di questo tipo può essere definita una mente, come si può dire in italiano, che cambia velocemente, mutevole, mutevole, un po' come il tempo atmosferico. No. The Dhammapada verse also tells us about a further quality of the mind. Namely, it says, swiftly and lightly it lands, and it moves and lands wherever it pleases. Allora, Dhammapada ci parla di un'altra qualità della mente, cioè praticamente la mente in maniera veloce e leggera si posa su qualunque cosa, si posa di qua e di là su qualunque cosa che voglia, che gli piaccia. And so, the Buddha himself has stated, among all things, the mind is the fastest. E il Buddha ha anche affermato, tra tutte le cose, la mente è la più veloce. And so, in the Anguttara Nikaya, its first volume, section 10, there's a statement by the Buddha, I consider that there is no phenomenon that comes and goes so quickly as the mind. It is not easy to find a simile to show how quickly the mind comes and goes. Allora, nell'Anguttara Nikaya il Buddha dice, non c'è nulla di così veloce come la mente. Io non trovo nessun paragone che possa essere utilizzato per spiegare quanto sia veloce la mente. And so, this you can experience in your own meditation practice. For a while, your mind seems quite calm. And then, let's say, you hear some unpleasant news, and immediately the mind goes into a totally different mode, namely, let's say, the mode of anger. Questo lo potete sperimentare nella vostra stessa pratica. Vedete come la mente in un certo momento è calma e tranquilla, ma poi improvvisamente, forse all'udire di una notizia, potrebbe cambiare la sua modalità e passare ad una modalità, per esempio, di rabbia. And so also what that might happen is that when you observe the mind really carefully, you might find how there is first a moment of calmness, then a moment of a couple of moments of calmness, then followed just by a few moments of restlessness, and then again a few moments of calmness, etc., etc. E se osservate la mente molto da vicina, potrete accorgervi che ci sono, per esempio, un paio di momenti di calma, seguiti da qualche momento di irrequietezza, e poi di nuovo torna la calma. And when observed superficially, the impression is that the mind is calm, but in fact it's alternating between calmness, periods of calmness with shorter periods of restlessness in between. E quindi a uno sguardo più superficiale potrebbe sembrare che la mente sia calma, ma osservandola più da vicino si vedrà che ci sono alcuni momenti più numerosi magari di calma e dei momenti più rari di rabbia, scusate, di irrequietezza, poi di nuovo di calma. And so, the Buddha did say that it was difficult to find a simile for the speed of the mind, but certainly he himself gave at least one, namely, or two even, that within one snap of fingers, billions of mind moments come and go. E quindi Buddha, pur avendo detto che era difficile trovare una similitudine, un paragone per la velocità della mente, in realtà ne ha dati due. Cioè, uno è che alla velocità di uno schiocco di dita la mente praticamente produce un miliardo di attimi mentali, possiamo chiamarli così. A billion, un miliardo di attimi. And so, in a similar way, there are billions of mind moments coming and going within just one act of blinking the eyes. E allo stesso modo ci sono appunto miliardi di attimi mentali solo con lo sbattere della palpebra. No. Lo sbattere di palpebra. To show you the nature of the mind, when you sit in meditation, let's say you sit down, you close your eyes, and then you start focusing your attention on the rising and falling, and you try to keep it there for 5 minutes, non-stop, without a single thought occurring. Will this be easy or not? Per dimostrarvi quindi qualcosa sulla natura della mente, pensate a mantenere l'attenzione della mente sull'addome per 5 minuti. Questo sarà facile o difficile? Just 5 minutes, it's not so long. 5 minuti non è poi così lungo. Is there anyone among you who can do that right away? C'è qualcuno che lo può fare in questo istante? Most likely this is going to be very difficult. Molto probabilmente questo sarà molto difficile. And so, especially during the first few days of a retreat, meditators find that even though the body is here at Pyandichileji meditation center, yet the mind happily goes back to Milano, or it goes to Torino, or it goes to one's family, etc., etc. Quindi voi potreste scoprire, soprattutto i primi giorni di un ritiro, che anche se il vostro corpo è qui a Pian dei Ciliegi, però la vostra mente è altrove, magari se ne va a Milano o a Torino con la vostra famiglia. Now, another feature of the mind certainly is, and we've touched on this already to some extent, namely, when we happen to come across some greed-inducing object, whatever the object may be, it could be food, it could be maybe some nice clothing or so, and or a nice book, and then if we're not controlling the mind, then greed will arise in the mind. Un altro aspetto della mente, e di questo abbiamo già parlato anche precedentemente, è il fatto che quando incontra un oggetto che induce la brama, come per esempio del buon cibo o un capo d'abbigliamento o un libro, qualunque cosa, allora è molto facile che nella mente sorga questo stato mentale della brama. And likewise, whenever we come across some undesirable object, then immediately or quite quickly, ill will arises in the mind. E allo stesso modo, quando incontriamo un oggetto non particolarmente gradito, allora quasi subito, quasi immediatamente, sorge nella mente della malevolenza. And again, when we come across some ignorance-inducing object, then sure enough, ignorance arises. E quando incontriamo un oggetto che induce l'ignoranza, allora automaticamente sorgerà l'ignoranza nella mente. And the same thing goes for a number of the other unwholesome mental states. E lo stesso vale per gli altri stati non salutari. Now, another rather disappointing quality of the untrained, untamed mind is that it tends to be rather small, tender and sensitive. Vabbè, un altro aspetto un po' scoraggiante di questa mente non addestrata è che tende a essere piccola, tenera, tender and sensitive. E sensibile. Yes. And certainly this means, you know, when, you know, someone says certainly something, you know, maybe negative about certainly ourselves, you know, then immediately we feel hurt. Questo significa che, per esempio, quando qualcuno, appena qualcuno ci dice qualcosa di negativo sul nostro conto, noi ce la prendiamo, ci sentiamo feriti. And so, even though we may be quite advanced in age, as the Venerable Sadhu Pandita oftentimes says, yet, you know, so, you know, the body is already growing quite mature, and yet, you know, the mind is still as immature as that of a teenager. E come dice Venerabile Upandita, anche se il corpo può essere abbastanza adulto o maturo, tuttavia la mente può comportarsi come quella di un adolescente. Now, we may be living in a new country that is very advanced in terms of its culture, in terms of its music, theater and opera and art and so on and so forth. Yet, is the mind really cultivated or not? Potremmo vivere in un paese che è molto moderno, molto avanzato in termini di arte, di musica, di cultura, di opera, via dicendo, ma la nostra mente è davvero molto coltivata oppure no? If really, you know, because of all, you know, the art and art and literature and theatre and so on, you know, the mind certainly were to, you know, be cultured or cultivated, then how come, you know, such atrocious, you know, deeds were performed as happened frequently, you know, during, you know, major wars? Se la mente fosse veramente coltivata, come dire, proporzionalmente alla cultura che c'è o a tutto quello che si è detto, no? La letteratura, l'arte, eccetera, allora com'è possibile che si siano verificate delle cose così atroci come quelle che sono accadute durante le guerre, per esempio? So true, you know, culture or cultivated, you know, cultivated state of being comes about only, you know, through, you know, the, you know, training or the development of the mind. Quindi la vera cultura o la vera coltivazione, diciamo, della persona avviene attraverso un vero addestramento o sviluppo della mente. And so, because of the with the many unwholesome, you know, thoughts that arise in the mind, thoughts and imaginations and fantasies and whatnot, you know, the mind has been described as being rather low and base. Allora, a causa di tutti i pensieri non salutari alle immagini, alle fantasie non salutari che nascono nella mente, allora questa mente è stata descritta come una mente molto molto bassa, molto infima. Now, the Buddha has certainly given quite a number of descriptions of the defiled or untrained mind. Il Buddha ha dato diverse definizioni o descrizioni della mente inquinata, diciamo, non addestrata. For instance, he is certainly saying, you know, that the mind is sick. Per esempio, dice che la mente è malata. Atura in the Pali language. Or he speaks of the mind being corrupt. Oppure la mente è corrotta. Sankilesa in Pali, or he speaks of the mind as being stained and impure. Oppure come macchiata o impura. Upakilita in Pali. sta ripetendo questi termini in pali. And then, the Buddha has described the mind to be obsessed and longing, eager and unsteady. Oppure come una mente ossessionata, che desidera, che vuole, che è instabile. And furthermore, the mind has been described as being unbalanced, agitated and shaken. Oppure la mente non equilibrata, agitata e mossa. And then furthermore, as being slow and sluggish and dull. Oppure una mente lenta, pigra e opaca. And also being difficult to direct on a steady course. Anche una mente difficile direzionarla su un percorso, come dire, solido, stabile. And this is not all yet. The mind also is quite wavering at times, wandering, straying and confused. Allora la mente è anche un po' traballante, la mente divaga e affaticata e confusa. And then yet another unwholesome quality is that it is afflicted. Un'altra qualità non salutare che è afflitta. And then at times misdirected. E a volte è ingannata, nel senso che è diretta in maniera sbagliata. Viene misled, yeah, right. And then deviata, possiamo dire. And then also as malevolent. Anche come malevola. And then the last point, as fettered. E anche come fettered, like having. Sì, come imprigionata, imprigionata. Now, this description of the Buddha, well, does it really correspond to the reality of your mind or not? Questa definizione del Buddha con tutti questi aggettivi corrisponde a, la, a come vedete la vostra mente oppure no? Yes, there's Goose is with courage saying yes. Goose coraggiosamente dice sì. And so, well, this being so, do you want to keep this mind or not? Quindi essendo così, vuoi mantenere la mente in questo stato oppure no? So, such a defiled and unbalanced mind is not really reliable. Quindi una mente così, diciamo, contaminata, defiled and instabile, no? Squilibrata, non è una mente su cui possiamo fare affidamento, non è affidabile. And so, such a defiled mind is a mind that suddenly then is being afflicted, that is being tormented by those mental defilements. E quindi una mente così contaminata è afflitta, è tormentata da quei difetti mentali. So for sure, such an untrained, untamed mind is not going to bring us such much genuine happiness. Quindi una mente così non addestrata non ci porterà una felicità genuina. No. In the context of the hindrances, the Buddha is saying that the hindrances which tend to arise in most of us, they tend to weaken the arising of wisdom. Allora, per quanto riguarda gli impedimenti, gli ostacoli, questi che tendono appunto a sorgere dentro di noi, non ci permettono di sviluppare, o meglio, ostacolano lo sviluppo della saggezza. Now, This gives you, then probably quite a good idea of some of the negative aspects of the untrained mind. Quindi questo vi dà una certa idea di tutti gli aspetti negativi della mente non addestrata. And so, the question then is how do, if we don't want to keep this kind of state of mind, then how to proceed, how to deal with the situation. Allora, se noi non vogliamo tenere questo stato della mente, allora come procediamo, come affrontiamo la situazione? And what the Buddha has proposed is train oneself in the form of the three trainings of sila, sila seka, namely training in virtue, training in concentration, training in wisdom. Quello che suggerisce il Buddha quindi è di intraprendere questo addestramento, questo tirocinio in tre ambiti, cioè la sila, cioè la moralità, samadhi, cioè la concentrazione, e panya, la saggezza. Mm. And so it is through the training in virtue that gradually our physical and verbal conduct becomes more and more refined. Ed è proprio nella pratica della virtù che il nostro comportamento, sia fisico che verbale, becomes more and more refined. Diventa sempre più raffinato. And so, what happens is that on retreat as meditators you take the eight precepts and suddenly then you try to apply these as best as you can, and suddenly then as a result of this you are not intentionally stepping on onto some end, and your verbal conduct will be refined. You're mostly spending the day in silence, and so this already means that you're not talking unnecessary things. E quindi qui in ritiro vi impegnate a rispettare gli otto precetti, e questo vuol dire che fate attenzione a non pestare intenzionalmente una formica, per esempio, o a non parlare in maniera scorretta, anzi qui non parlerete affatto, e quindi questo significa che siete un po' protetti dalla possibilità di pronunciare delle cose non salutari. And so, since all of you, or since of our newcomers are already somewhat experienced meditators, so you will be quite familiar with sila. E siccome tutti, anche i nuovi arrivati, conoscono già la pratica, quindi conoscerete già appunto cos'è sila, cioè la moralità. And so, maybe just to emphasize one point, that when we train in virtue, we try to improve our ethical conduct more and more, then the main benefit of this is going to be non-remorse. So we won't have a bad conscience for having transgressed in this way or that way. Quindi solo per sottolineare un aspetto di questo addestramento nella virtù, questo sviluppo del comportamento etico, è che uno dei maggiori benefici è l'assenza di rimorso, cioè avremo sempre la coscienza a posto per aver rispettato appunto questi precetti. Now, being well established in Sila, the next training consists in establishing concentration. The mind is at first not necessarily all that concentrated, and so when we observe whatever predominant object comes up, and our mind is squarely falling onto the object, sticking to the object, with this thing, a few moments of concentration arise. Per quanto riguarda il secondo addestramento, la concentrazione, inizialmente la nostra mente non sarà molto concentrata, ma con la pratica la mente sempre più riuscirà a cadere sull'oggetto, addirittura attaccarsi all'oggetto, e quindi con l'andare del tempo la nostra concentrazione si svilupperà. And when we then observe other objects, and the mind will fall onto those objects, there will be more and more moments of concentration. E poi la mente cadrà su altri oggetti che si presenteranno, e quindi ci sarà sempre più concentrazione. So in the context of applying effort and then continuous mindfulness, and with the help of increasing or strengthening concentration, this hindrances to progressing one's practice, those will be suppressed. E quindi con attraverso lo sviluppo dello sforzo, poi della consapevolezza, che porteranno a una maggiore concentrazione, allora tutto questo avrà come conseguenza una soppressione, un'eliminazione degli ostacoli. And so, with those five hindrances temporarily gone, what we will experience is a relative purity of the mind. E quindi quando questi cinque ostacoli saranno temporaneamente annullati, allora faremo questa esperienza di una purezza della mente. So to the extent that we manage to suppress those five hindrances, to that extent the mind will be well tamed. E quindi la mente sarà ben addestrata in corrispondenza di quanto, cioè, posso dire, parallelamente a quanto noi riusciamo a in qualche modo tenere a bado, addirittura eliminare i cinque ostacoli. And so to that extent also, the so-called obsessive defilements that were mentioned earlier on will be suppressed. E nella stessa misura, nella misura equivalente, questi inquinanti ossessivi di cui abbiamo parlato prima saranno anche messi da parte. However, suppressing the obsessive defilements that is not a guarantee for no arising of unwholesome mental states. E tuttavia questa repressione degli inquinanti ossessivi non è una garanzia riguardo alla possibilità che sorgano degli stati non salutari. And so what remains are greed, hatred, delusion, and so on, in a latent form in the mind. Quindi quello che rimane sono appunto l'avidità, l'odio, l'illusione, in una forma latente nella mente, quindi in una forma ridotta ma latente nella mente. And in an inactive state. E sono in uno stato inattivo. However, as soon as suddenly the opportune conditions arise, these latent defilements will be activated, and then they might easily turn into obsessive and or transgressive defilements. Tuttavia, appena ce ne sono le condizioni, allora questi inquinanti mentali, questi difetti latenti, possono poi attivarsi e diventare o ossessivi o trasgressivi. So in order to tackle those latent defilements, we need to then adopt another form of training, which the Buddha has described as the training in wisdom. E quindi per affrontare questi inquinanti, questi difetti mentali, dobbiamo impegnarci in un altro tipo di addestramento, di tirocinio, che ci indica il Buddha, ed è quello della saggezza. And so, in order to develop wisdom, we need to be mindful of whatever predominant object arises. This then leads to concentration, and based on this, then intuitive wisdom can arise. Allora, per fare ciò dobbiamo essere consapevoli di ogni oggetto che sorge nella coscienza, e sulla base di questa consapevolezza poi si svilupperà la concentrazione, e di conseguenza sorgerà questa saggezza intuitiva. And so, to restate the last few points, it is through the training in virtue that we overcome the grossest and transgressive defilements. It is through the training concentration that we overcome the so-called obsessive defilements, which are taking place only in the mind. And it is through the training in wisdom that we overcome the latent defilements, at least on a temporary basis. Quindi, per riassumere questi ultimi concetti, quindi attraverso la pratica della virtù che riusciamo a superare i difetti mentali più grossolani, che abbiamo chiamato trasgressivi, ed è attraverso l'addestramento nella concentrazione che riusciamo a superare i difetti ossessivi che sono presenti nella mente, ma non sono stati attivati, diciamo, ed è attraverso l'addestramento della saggezza che riusciamo a superare e quindi ad eliminare i difetti mentali latenti nella mente. And certainly when we undertake this certain triple training, and then results will be there, and it will bring about our previously untrained mind now gradually becomes a trained mind. Quando ci impegniamo in questo triplice addestramento, allora vedremo dei risultati, e la mente che precedentemente era una mente non addestrata si svilupperà in una mente invece addestrata. And the Buddha has described such a trained mind in the following terms. Il Buddha ha descritto questa mente addestrata nei seguenti termini. Namely, as a healthy mind, una mente sana, as a fully developed mind, pienamente sviluppata, a mind that is unattached, una mente che non ha attaccamenti, a mind that is contented, che è contenta, che si accontenta di ciò che ha, è soddisfatta, that is active and pliable, una mente attiva e malleabile, that is straight and upright, dritta e retta, and certainly that is also steady, una mente stabile, a mind that is free from covetousness and malevolence and confusion, libera dall'avidità, dalla malevolenza, dalla confusione, a mind that is free from perversion, libera dalla perversione, and a mind that is pure, pura, a mind certainly that is resplendent, una mente che risplende, and a mind that is full of inward calm, una mente che è piena di calma interiore, that is concentrated, che è concentrata, that is cleansed, che è ripulita e purificata, that is purified of defilements, quindi è libera dagli inquinanti, that is unperturbed, imperturbabile, and that is freed, una mente liberata, and utterly released, è completamente mi sta dicendo la stessa cosa, it's the same thing, liberated. So such kind of a mind, what do you think, will bring happiness or not? Secondo voi una tale mente porterà la felicità oppure no? Well, too simple a question. La domanda è troppo semplice. So, And such a well-trained mind, by all means, will bring you much happiness. Sicuramente una mente così addestrata vi porterà molta felicità. So, since some of you may have had a longer journey to come here in order to join the retreat, I will keep the basic meditation instructions very short, just enough so that you know how to practice until tomorrow. Siccome alcuni di voi hanno probabilmente dovuto affrontare un viaggio piuttosto lungo per arrivare fin qui, allora vi darò poche istruzioni di base, solo perché voi possiate cominciare a praticare fino a domani mattina. And so these basic instructions are, the maxim as given by the Venerable Mahasi Sayadaw, try to, to label, observe and know every predominant object that arises in the body and or the mind, beginning with the rising and falling movement of the abdomen. Allora, le istruzioni proprio di base possono essere, così come sono date dal Venerabile Mahasi, possono essere espresse in una formula, diciamo, cioè dovete etichettare mentalmente, osservare e conoscere qualsiasi oggetto predominante che sorga nel corpo o nella mente. So, this instruction then is to be applied to all objects that occur in the body and to all objects that occur in the mind. I forgot to say sì, ho dimenticato di dire che si parte sempre dall'osservazione dell'addome, cioè dall'alzarsi e abbassarsi dell'addome, e poi questa stessa formula, diciamo, va applicata a qualsiasi oggetto che sorga nel corpo e nella mente. This covers then also all objects occurring at the six sense doors. So when there's a seeing process going on, then, and it is predominant, then please take this as an object, label it as seeing, and then observe it in a non-reactive manner, try to know its nature. When it passes away, go back to your rising and falling movement of the abdomen. E quindi questo comprende anche tutto ciò che avviene alle sei porte dei sensi. Allora, se per esempio c'è il processo del vedere, allora lo etichettate come vedere, osservate in una maniera non reattiva, cercate di conoscere la sua natura, e poi quando termina questa osservazione, questo processo, tornate a osservare l'addome. And then when there's a hearing process going on, so you hear some sound, then take that as an object of observation and label it accordingly as hearing, and then observe it carefully and know its nature. Lo stesso vale per il processo dell'udire, quando udite per esempio un suono, allora lo etichettate, lo osservate attentamente e cercate di conoscerne la natura, e poi tornate all'addome. And so, then the basic instructions also cover all of your physical objects, all of your feelings, and then also the mind and Dhamma objects. E quindi le istruzioni di base mi dicono di osservare gli oggetti in queste quattro categorie, diciamo, quattro sfere, che sono gli oggetti del corpo, ma anche le sensazioni, la vostra mente e poi i cosiddetti Dhamma. And so again, to explain it in a different way, the same maxim is also to be applied to the sitting meditation, to the walking meditation, and to all activities or predominant objects during your general activities. E quindi questa massima, diciamo, questa formula va applicata sia nella meditazione seduta che in quella camminata e sia in tutte le attività quotidiane. And so it all boils down to just one thing: be mindful of whatever predominant object comes up. Alla fine tutto si riduce a una sola istruzione, cioè siate consapevoli di qualsiasi cosa che dovesse sorgere. So let me conclude today's Satya Dhamma talk by wishing may you, during this Satya short Satya retreat until April 30th, may you discover for yourselves how difficult it is to control the mind and how the mind swiftly and lightly moves and lands wherever it pleases. E quindi finirò, terminerò questo discorso augurandovi in questo breve ritiro fino al 30 aprile di riuscire a vedere per voi stessi quanto sia difficile controllare la mente e quanto velocemente la mente vada da un oggetto all'altro. And then may you also understand more and more that it is indeed good to tame the mind. E che voi possiate per voi stessi scoprire, capire che è effettivamente una buona cosa domare la mente. And then may your well-tamed mind bring you much happiness. E infine che la vostra mente ben domata, addestrata, possa portarvi grande felicità. And that's it. Thirty-five. Do you have the party?